portiamo a fare una passeggiata con noi in Bolognina, il nostro ridente quartiere. Un po' di adattamenti sonori, giusto per farvi sentire un po' a casa nostra. Chiaramente c'è il traffico, come ogni quartiere. Però la fauna è alquanto strana. La Bolognina non è un quartiere come tutti gli altri. Perlomeno qui a Bologna. Per esempio, ora siamo all'angolo di via Nicolo Dall'Arca con via Franco Bolognese. L'attraversiamo, c'è un semaforo rosso, ci fermiamo. E alla nostra destra, in fondo alla strada, c'è un palazzone non finito e l'ingresso di XM24, spazio pubblico autogestito che dal 2002 è in questo quartiere. Passiamo col rosso chiaramente e incrociamo per esempio una bella signora con due bimbi. Un marocchino, due bangla. Un palazzo nuovissimo, le ali di Alice, micronido, finito ma fermo, inutilizzato, nuovo di pacca. La postina, buongiorno. Un bel condominio new style. Dall'altro lato della strada un'inga che si sbraccia. E continuando su via Nicolo Dall'Arca siamo già arrivati a un altro grosso incrocio della Bolognina, Nicolo Dall'Arca con via Pellegrino Tibaldi. Ad accoglierci uno stencil con scritto Bolognina ghetto Antifa colore nero. Passiamo col rosso, quasi ci investe un taxi. Passa un indiano, io passo col rosso, anche la signora passa col rosso e arriviamo dalla nostra fornaia preferita, la Tina, una moldava che ci dà sempre il pane. Ciao Tina, buongiorno. Tutto a posto, Sabri? Tutto a posto, tutto a posto. Come stai filmando tu? Stai sentendo tutto? Sto sentendo tutto, sono della Digos. Siete tutti in trappola. Tina, che ci racconti oggi? Dai, dici qualcosa che sto... Niente di buono. Dai, ma raccontaci qualcosa di buono allora. Una barzelletta moldava. Ucraina. No. Su Putin. No. Dai, ce l'avrete una barzelletta no, su no, Putin. No, no. Su Stalin? Su Stalin? No. Dai. Vabbè, su. Su Hitler. Sì, chi lo conosce? Su Tito. Dai, uno a caso. Adesso, che cosa ci dai oggi allora? Cambiamo discorso. Niente, non te lo. Ah, non ci. Un pugno in faccia. Un pugno in faccia, madonna, che violento sto quartiere. È violento sto quartiere, vero Sabri? Sì, madonna, violentissimo direi. Da quanto tempo ci vivi? Io? Da settembre, metà settembre. Quindi qualche mese. Qualche mese, sì. E mi hai fatto ammazzare? No, io personalmente no. Io mi avevo dato 12 anni. Tu mi hai fatto ammazzate? No. Hai mai dato il pugno in faccia che volevi dare no. a me? Non ho credo che lo sei conservato per me sto pugno. No, vabbè, ti hanno mai provato a stuprare? No. A rompere il cazzo sì un po'. Poi io. Perché tu sei carina. Sì. A te invece Tina? No, no. Cosa non mi hanno fatto niente, nessuno, mai. In 12 anni. Sto venuto solo a rubare. Ti hanno rubato? Sì, ma qua niente. Non ce l'ho fuori. Sì. Non so cosa vuole rubare qua non. E che mi ha rubato la farina? Sì, come fai? Pesa. E che mi ha rubato? Avevo delle monetine, le ho prese, basta. Quanto ci hai perso? Ma saranno 100 euro. 5? 100 euro. Ah, 100 in monetine. Era il fondo cassa. No, avevo delle monetine, quelle da 10, da un centesimo, dai, adesso non mi io ti sto dicendo. Vabbè, no, ma queste sono testimonianze del quartiere bolognese. Ah, sì. E ti hanno rotto la vetrina, che hanno fatto? Eh? Ti hanno rotto la vetrina, come sono entrate? No, da là dietro. Quindi nessun danno? No, danno sì, dalla finestra mi hanno rotto tutto. Però c'è l'assicurazione almeno. T'ha coperto? Ti posso chiedere quanto paghi d'assicurazione, se si può dire, per dire che? Questo lo io non lo so, i miei mariti. Ecco, è arrivato un extracomunitario. Io con l'extracomunitario, al massimo sei tu un extra. Si è appena svegliato, vi anticipo. Si valuta bene. Meno male che non si vede questa registrazione. Infatti una registrazione non si potrà mai vedere finché non inventeranno l'audio-video, no? Come diresti tu. O video, danno pure l'audio, frato. Ma ci hanno fatto a lui. Posso avere quegli elicoidali Ma ci sono prima io. Ma io ti stavo ignorando apposta, visto che tu ti sei tolto dalla scena come intervistatore, ma non sei ancora a Napoli, la domanda l'ho fatta io. Il papà chiave. Per un minuto. Denuncio Megabus per non avermi aspettato, nonostante ci fosse una bimba e una ragazza a fermare l'autobus. Io sono arrivato un minuto dopo e l'autobus è partito. Denuncio Megabus, ma ripasso all'intervista. Secondo me a Barzelletta per qua sono tutti seri, pure che allora stavamo in un quartiere dove la gente lavorava, si trovava tutto bene, solo che a un certo punto dissero che gli altri erano neri, allora tutti quanti avevano paura del nero. E di giorno, con questa paura del nero, i neri non c'erano. E di notte, con la paura dei neri, i bianchi non c'erano. Allora stavano quelli un poco bianchi e un poco neri, questa è la Barzelletta. Tu sei bianco o nero? Non si capisce. Ma sei juventino? Forza Napoli. Grande! Forza Napoli! Forza Napoli! Che hai fatto Napoli a ieri? Ieri ha vinto e sabato c'è Juve-Napoli. Che posto sta? Primo posto. Grande! Forza Napoli! Pure lui c'ha la maglietta del Napoli, buongiorno. Oh, ci vediamo stasera. Quando vuoi, dai, sto facendo delle cose serie. Poi me fai sentire. Non ti faccio vedere niente perché non si può guardare, voglio. Ciao, buongiorno. Ciao. Che sei venuto a comprare, te lo possiamo chiedere? Eh? Che sei venuto a comprare? Ciao. Una pizza. Sono buone le pizze? Pizze? No, ho finito tutto. Finito. Va buono. Forza Napoli. Forza Juve. Ma come forza Juve? Mo appena se n'è andato quello che ti fa a Napoli lo dici. Cioè non gliel'ha detto. È un coniglio juventino. Ciao. Coniglio juventino. Mia madre è juventino. Ma dai, la Juve di Agnelli ci hanno mangiato addosso dalla seconda dopoguerra, buona. No, boh, sto cacchio, scusami. Vabbè, che ci dai Tina se ci dai qualcosa? Dai, noi siamo. La Tina ci dà sempre dei gran bustoni di pane. Quando le sta per chiudere noi passiamo furbamente. E invece di buttarlo, e visto che non ci sono le galline, gli animali domestici a Bologna, gli appartamenti sono piccoli, il pane ce lo dà a noi che non lo bruchiamo come dei maialini. Poi mangi, sono salati, non c'è niente. Sì. E poi è anche attenta alla nostra dieta vegana. C'è. Però ti do un bel panino al prosciutto, lo faccio arrabbiare. Grazie mille, Tina. Ciao. Ciao, buona giornata. Ragazzi, si ritorna in strada. Il prossimo obiettivo. Il prossimo step. Dai, raccontacelo tu, Sabrina. Prossimo step, ricicla di verdure. Dove e andiamo? Frutta. Al mercato Albani. Ottimo, mercato Albani, centro e fulcro della Bolognina, dove tutti i colori dell'arcobaleno si mischiano. Oggi è una bella giornata di sole, ragazzi. Io vi anticipo che prima di mercato Albani noi attraversiamo questa strada che è una delle strade più attive del Bronx bolognese. La fauna si comincia a fare interessante. L'aria è tesa. Ma a noi non ce ne frega un cazzo. Sarà la musica ad accompagnare questo silenzio e il nostro carrello pieno di ricicla. Fermata dell'11, Bolognina. Una signora incrocia la nostra strada. Sabri, come ti senti? Oggi? No, già che è una bella giornata mi sento meglio. Bolognina, come passeggiarla? È bella, Bolognina spacca, è bellissima. Angolo Antonio Di Vincenzo, attraversiamo rischiando di farci investire. Incrociamo dei tunisini. Giriamo a destra verso la sinuosità di ciò che ci avanza e ci fermiamo dal nostro peruano preferito. Ciao ragazzi. Come va? Va sempre bene qui da il peruano. Buongiorno. Ti faccio ridere qui. Ora è solo audio, nessun video, così non vi prendete vergogna. Ciao. E ora che stai facendo? Sto facendo una passeggiata in Bolognina, così chi sta da un'altra parte sa che come ci si sente a passeggiare in Bolognina con una bella giornata di febbraio. Tu come stai? Bien, bien. Con il Willy normalmente parliamo in spagnolo, ma per oggi la comunicazione sarà in italiano. Ok, davvero. Estamos haciendo una grabación de como un paseo en la Bolognina y preguntándole a la gente: oye, ¿cómo te sientes hoy? Un día de sol, ¿estás feliz? Y estás mamada, ¿no? Y luego le voy a pedir: oye, ¿cómo te sientes en Bolognina? ¿Te sientes bien, seguro? ¿Nunca te ha pasado nada a pesar de lo que sí? ¿Sabes? Esta onda de rescatar la Bolognina. Claro que se puede rescatar la Bolognina. Pero devi parlare in italiano, quindi sennò non si entra niente quest'audio. Parliamo sempre in spagnolo. Claro. Sempre. Ah? Che cosa pensi che si può salvare la Bolognina? Certo che si può riscattare la Bolognina, ma ormai c'è tante cose belle alla Bolognina. Però piano piano le stiamo perdendo tutte quelle cose belle, ma però se non mettiamo se non ci mettiamo quelle palle per tirare avanti la Bolognina, ormai non lo so come finirà, ma da quanti anni ci sei? 9 anni. Sei sposato lì qua? No, a Perù. Però c'è una figlia che è nata qua, praticamente anche io mi sento parte della città, no? E quindi per quello che mi viene questo dispiacere di tutto quello che succede qua. Ci vuoi raccontare la roba che è successa l'altro giorno? Ma dai, ormai è rimasto un po'. La prima volta. È rimasto un po' al ricordo, diciamo, non lo mettiamo già ormai. Dai, l'ultima volta, così almeno rimane salvato da qualche sì, parte. Lo so, ma però comunque non lo voglio più ricordare quelle brutte esperienze che hai tenuto, e quindi lasciamo stare lì il ricordo, quindi speriamo che non succeda avanti altre cose come me è successo. Dai, il ragazzo qui è timido, ma la settimana scorsa hanno provato a rapinarlo con una pistola a giocattolo. Lui, da bravo guerriero peruano, preispanico, tra parentesi, con le palle ancora, ha disarmato il rapinatore, si è reso conto che era una pistola a giocattolo e il tipo se n'è scappato. Però si è preso un gran spavento, se cagò in cima, come si dice in porai. Questo non lo può cucinare? No, questo. Cammini, guarda. Lo come in crudo? Sì. Bueno. ¿Tiene algo, Willy, o vamos a pasar la tarde? Qua da Willy passiamo quasi tutti i giorni, o comunque quando abbiamo tempo, quando facciamo le cene, i benefit, eccetera, eccetera. E se ci mettiamo d'accordo, lui ci fa sempre trovare un sacco di cassette di robe che magari sono un po' avanzate, ma ancora buone. La gente, giustamente pagandole, le vuole pure vedere belle nell'era estetica, quindi... Mi ha regalato un mandarino, ce lo mangiamo. Come stai tu? Tutto bene. Che per una calata? Chiedo una calata? Però sta pagato. Hai che prendere. chi era il ciste? No, il ciste per la tarde, io te cuento un... No, quiero una horita. Mi preparo un chiste per la tarde. Pues una horita e una en la tarde. No, pero ahorita no me recuerdo. Ah, ahorita está la cabeza en el trabajo todavía, entonces este... ¿Puedo decir algo? Sí. Vabbè, qua ci stanno mandando a cagare in spagnolo. Arrivederci, ragazzi. Ciao, ci vediamo dopo. 10 euro. Come 10 euro? Ah, te devo dare i soldi, oh. È vero, dell'altra mattina che non dormivo, ero insonnio. Erano 8 euro, mi sa, Willy. Oh, mi sembra che tu dormi due giorni. Vabbè, mi devi 2 euro, mi prendo una cosa la prossima volta. Ok, dai. Ciao ragazzi, buona giornata. Passiamo al mercatino? Ma non ti ha dato niente quest'altro. Ciao ragazzi. Ciao. Tu eres demasiado serio, eh? Ben Thomas demasiado in serio, sei un pinche idioto. Vabbè ragazzi, riprendiamo la nostra passeggiata, Sabri. Ah. Problemi di comunicazione, aiuto. Non lo so, o sono stanchi o non ci avevano cazzi oggi. Però ma tutti che si spaventano davanti al registratore. Poi quando scoprono che si tratta di un registratore, un po' scappano, non parlano più. Facciamo notare com'è composto questo registratore. Con una spugna che... Sai che prima ci ho lavato i piatti con questa spugna? Basta. Vuoi leggere un po' delle scritte che ci sono in giro arrivando al mercato Albani? Allora, di sì. Qua. Si trovano delle scritte magari più grandi. Oh, fuori gli sbirri, ACAB. Aspetta. Ecco, mercatino Vincenzo Albani. Ciao. Meglio Salvini morto che uno... Ah, meglio un Salvini morto che uno domani. Lascia il carrello. Ah, la Digos sgombera e arresta, noi bruciamo dalla voglia di libertà. Poi la Bolognina non si vende, si ama e si difende. Poi no. Anarchia, la di anarchia. Contro ogni guerra, stop interventi militari. L'avenir c'est à nous, la cité sommes nous. Le monde c'est à nous. Agab. Ci stiamo facendo una panoramica delle scritte qua in Bolognina per farvi rendere conto dove siamo. L'idea di questa registrazione, più o meno, mentre mangio un ottimo cornetto riciclato, è farvi rendere conto dove viviamo in Bolognina. Mi chiede allora. Ciao ragazzi, mi è rimasto qualcosina? È rimasto qualcosina, ragazzi? È rimasto qualcosina che buttate? Dietro? Va, lo piglio io da dietro, rimane pure qua. Continuiamo la nostra ricerca, abbiamo fatto un po' tardi oggi, non sarà molto ricca. C'è scritto lega merda. Tacchinaggio, molesto. Un altro ACAB. Che ti vendo vaccino. Ciao! Mi è rimasto qualcosina oggi? Di verdure? Frutta, nulla. Questo peperoncino posso? È un peperone? No. tutta arrabbiata. Ai cinesi non piace molto tardo riciclare. Non capiamo bene se lo riciclano loro nel giro ristoratori. Qualcuno è chiuso per lutto, qualcuno è chiuso e vende. Continua il mercato Albani. No Stato. Lega fuori. Bologna anarchica. No fasci. No nazi. Fuori partiti politici dalla terra. Gianmarco De Pieri, Zucca. Più mazze, meno masse. Pippo, Tommy, Andre, liberi. Ricordiamo che Pippo, Tommy e Andre sono stati in carcere, ora sono sotto processo ai domiciliari, accusati di aver incendiato un covo fascista, ma ne parleremo più approfonditamente. Meno risvoltini, più rivolte. Alcuni sono molto simpatici, ragazzi, io vi do spunti, qui non è autocelebrazione, vi ripeto. Brigata Peroni, Roma. Miss Vendetta. Un altro bolonino antifa. Un altro stencil. Dicono che il nostro rapporto fosse ormai a pezzi. Stop Control. Billy, Silvia e Costa, liberi, libere. Poi per farvi capire siete il benvenuto, ragazzi, c'è un sacco di posti vuoti. Non invitiamo a delinquere, ma vi facciamo presente la realtà delle cose. Il quartiere è molto vivo in realtà. I giornali parlano di degrado, ma onestamente a girarci, sicuramente non è il quartiere più ricco di Parigi, ma nemmeno si vede tutto questo degrado. E quel po' che si vede sembra quasi provocato. Un altro neonazi. Tra l'altro è molto caratteristico. La maggior parte sono fruttivendoli, verdurai, cioè indiani, bangla, cini, italiani chiaramente, quelli meno simpatici, non tutti, ma la maggior parte meno simpatici. Un'altra scritta non fasci. E lasciamo il mercato, c'è andata secca oggi. Mamma fatta tarda. Ragazzi, per far funzionare questa radio non mangiamo. Apriremo un crowdfunding. Guarda chi incontriamo. Pronto? Buongiorno. Come andiamo? Ci hanno dato qualcosa? Non lo so. Il pane? Com'è andata? Un cazzo. Ciao. Gatto, raccontaci una barzelletta. Una barzelletta? Sta qua su tutti i seri, si vede il... La crisi, dietro ci siamo andati da quello? Ah, aspetta, allora vado. Scusa, mi è mezzo perso a leggere i manifestini. Vedete, raga, mi perdo, non stavo nemmeno prendendo quello che ci avevano lasciato per fare questa registrazione itinerante, ambulante. Vediamo un po' che cosa ci aspetta. Qui c'è un panificio, ma ci danno sempre solo pane duro, non sappiamo più cosa farcene. Un pomodoro, dell'insalata, da sciacquare chiaramente. Ragazzi, mi raccomando di disinfettare le vostre munnezze. Noi spammiamo la modalità del riciclaggio, ma voi non finite all'ospedale. Per favore, autogestitevi. Abbiamo due cipolle e una cassetta di pomodori. Gentilmente offerta. Degli scarti di cime di rapa che con cui si potrebbe fare un brodo, ma già siamo pieni di scarti di un sacco da cosa. dei mandarini, ma marci, regà, non vuoi mangiare la roba marcia, tanto ce n'è pure di fresca. Vi consiglio di fare una prima selezione già dal mercato per non portarmi munnezza a casa. Loro provano a collarvi di tutto, perché anche le cassette vi spacca i coglioni buttarle, voi non vi fate infinocchiare. La prima volta sembra simpatico, dopo un po' non sapete che cazzo farci queste cassette di merda. Potete costruire un grattacielo di cassette e abbattiamo la speculazione edilizia e il business del mattone. La gente ci guarda impazziti. Questo è il secondo esperimento al mercato Albani. L'altra volta con una telecamera e li abbiamo veramente impauriti, non ha funzionato molto. A sto giro solo con un registratore che in effetti ha una spugnetta da cucina come filtro. Però fate i cazzi vostri, non vi stranitevi. Ciao, non vi stranitevi una spugnetta. E qui terminiamo il nostro giro. Abbiamo riciclato un bel saccone di pane, pizzette, gorgonzola, cassetta di pomodori, che altro? No, scordate il potassio, ragazzi, soprattutto l'inizio settimana se venite da un fine settimana difficile. A buon intenditor, poche parole. Carne podrida. Qui metterò un bel pezzo di lirica, terror di miseria. Zona antifascista permanente, accerchiata. Corteo per il diritto alla casa. Murales di Deco, il brasiliano più emiliano che conosca. Leggendo tutti i messaggi subliminari, tipo questo che mi... Più masse, meno masse. Il mio preferito è meno risvoltini, più rivolte. A me piacciono quelli ad effetto, ma simpatici, ragazzi. Una risata li seppellirà e noi dobbiamo ridere alle loro spalle. Non so se provate a fare questa cosa distaccandovi. Io, avendo vissuto anche fuori dall'Europa, vi dirò che leggevo i vostri giornali e mi facevo delle gran risate. C'è chi compra libri di barzellette, basta guardare la televisione. Decostruite le pubblicità, guardate Essi Vivono e capirete di cosa vi sto parlando. Carpenter, ce l'avevi già detto, ma nessuno t'aveva ascoltato. E quindi io ti linko, non da Facebook, ma bocca a bocca, bit a bit, etere contro etere, resterà solo cenere. Come batteri dal di dentro distruggeremo la vostra forma di sistema, brucerà. E che cazzo ve lo dico a fa, basta che una cippa diventi fiamma e tutto il resto parlerà da solo. Non ci sarà mica tempo per le chiacchiere, ma paccherà per tutta parte. Comanda quei potenti, andranno come birilli chi comanda quei potenti. Io credo che saranno i primi a cadere, ragazzi. Parlano di anarchia e caos perché hanno paura dell'anarchia e il caos, perché sanno che la gente, riprendendo in mano le loro vite, La prima cosa che farà sarà andare a bussare alle loro porte, a chiedergli spiegazioni, a chiedergli i loro soldi e le loro fottute proprietà che strabordano, a chiedergli anche i loro beni materiali, perché intanto che ce li abbiamo li usiamo, ma bene. E poi spiegazioni, giustizia, quella vera, di secoli vissuti nella pochezza, nella schiavitù, nella servitù, ormai oggi volontaria, ma fino all'altro ieri bello obbligatoria, a me pare. E mica qua stiamo a parlare solo d'umani, Sabri. Soprattutto gli animali. Cioè, animali, perché poi ci stanno gli animali umani e gli animali non umani, quindi tutti animali siamo. La naturalezza. La naturalezza. Ma lo penso, se non è animale, pianta, a lei non gliene fotte in cazzo. Ha curato anche l'habitat, perché se no... Beh, abbiamo un antispecista, ragazzi, le piantine non sono contemplate. No, sono contemplate. Vabbè, non è la stessa cosa. Sì, massimo rispetto pure per l'ambiente. Però per me una pianta di insalata non è paragonabile a un maiale, una mucca, un ragno, una scarapaglia. No. Questa è... Un altro po' di interazione in quartiere prima di ritirarci, che intanto se ne è rientrato anche il sole, vi dirò, per questo ci siamo un po' ammusciati in questa passeggiata che è durata una mezz'oretta. Torniamo a casa con un bel saccone di pane, come abbiamo detto, pomodori e da cucina. Buongiorno. Stiamo facendo delle registrazioni in quartiere per capire come si sta in Bologna, se vuole dare un contributo. Interessa? È solo audio, non è su YouTube, è solo la voce. Non è interessante. Buona giornata. Facce da botta di psicofarmaci. I vecchietti sono incazzati neri e c'hanno pure ragione. Nonostante gli paghiamo la pensione, vivono una vita altrettanto di merda. Rispetto per i vecchi, mandiamoli su un'isola delle Bahamas a scopare come i bonobo. Niente preservativo, figli con le rughe. Più vecchi per tutti i ricchi. Ve li mandiamo nelle vostre grandi case. Avranno di che divertirsi, avranno di che palpare, avranno di che guardare. La vostra pochezza li sorprenderà e si riprenderanno, torneranno giovani e capiranno che sono vecchi per colpa vostra. Come avete ascoltato, abbiamo un aeroporto qua vicino, quindi sembra Kabul in certe ore della giornata. E ragazzi, qui finisce questa passeggiatona per la Bolognina, la ricerca del surplus valore alimentare. Vi salutiamo e ci rivediamo al più presto. Ciao, aiuto. Secondo audio, ritorniamo qui da Willy. L'abbiamo spaccato così lo editiamo più facile. Tieni un attimo, Sabri. La fauna bologninese è molto varia. I colori sono tanti, le muste brutte. Qui è il B-Bronx. Scusate ragazzi, interruzione telematica. Abbiamo un'interferenza. Tra l'altro qui in Bologna si ricicla di brutto. Biciclette abbandonate, bancali per costruirsi mobili, letti, soppalchi, mobili abbandonati, computer da riparare. Tutti sballati, si dimenticano di tutto in giro. Trovi telefonini, cappelli, guanti. Tutto per vivere ai margini della società consumistica. Il vostro plusvalore ci salverà. Willy sta chiudendo. Oh, ci raccontate una barzelletta peruana? Pure in spagnolo, va bene. Aspetta, ascoltalo che has grabato. No, tu, quando l'ho finito te lo faccio sentire, ma non te lo posso far sentire. Mi devi raccontare una barzelletta peruana, pure in spagnolo se vuoi. Sui bianchi con il pesce piccolo. Ma io delle barzellette sono quelli rosse? Vale. Chistes rojos. Vale, chistes rojos. ¿Cómo te ha contado una señorita su delante? ¿No? Bueno, no se va a enterar del español. Y le vamos a poner un beat. Espérate, que me he olvidado. A ver, ¿tú tienes una lista? Vamos, chicos. La primera, la que le contaron a la primaria. A ver, ¿qué tal? ¿De verdad estás filmando? No, maestro, está jugando. Eso es puro audio. ¿Quieres que lo pare y te enseñe? A ver. Y luego me cuentas el este. A ver, interruzione ragazzi, qua non ci credono gli effetti speciali. Giusto sentire. Madonna. Questo è per fare le registrazioni. Sto facendo delle interviste in Bologna, ci vuoi di qualcosa? Un casino qua. Come un casino? Dove scappi? Vieni qui. Guardate, è la cucina, è contro da lui, eh. Hai visto? E se vengono a rapinare a te, tu chi si difende? Arti marziali. Un cinese si è intromesso nella discussione. Interruzione ragazzi, spazio pubblicitario. Creo que hay personas que tienen miedo o algo, pero las cosas pueden ser distintas. En realidad el mundo no es exactamente una mierda, aunque supongo que es duro para aquellos acostumbrados a que las cosas sean como son, aunque sean malas. Non voglio che lei mi aiuti. Che cosa vuole? Voglio che lei ascolti. E poi cosa? Che lo racconti. A chi? A chiunque la ascolta, a chiunque conosce, le persone vicine. Ce ne sono? Perché non lo dice lei agli altri? Non sono fatto per questo mondo. Non più ormai. Per quale mondo allora? Quello dei suoi ricordi? Sprangato nella sua mente per il resto della sua vita? È questo che vuole? Voglio finire questa cosa. Quale cosa? Raccontarle quello che so. Cosa le fa credere che quello che sa è diverso da quello che sanno gli altri? Ho avuto insegnanti diversi. E così si aspetta che io divulghi il suo lavoro? Sì, per quello che vale. Perché poi ha scelto me? Un certo suo sguardo. Lei sembra avere una specie di mezzo cervello. Grazie, quale sguardo? Quello sguardo. Curioso, indagatore. Non soddisfatto. Anche leggermente incazzato. E che non ha scelto lei? Lasci perdere. Perché perché si rifiuta di parlare di lei? Lasci stare. Vuole vederla, io dico che dobbiamo parlarne. Mi sbagliavo su di lei, Joe. Si spieghi meglio. Gli dica di aprire la porta, lei non è quello giusto. Non sono quello giusto? No. Non sono io quello che le ha ridotto i farmaci? Non sono io quello che stabilisce se lei deve essere processato, la sua occasione per andarsene da qui? Sono quello giusto. Davvero? Quello giusto. È lei che ha il controllo, eh? Sì. Chi è che ha il controllo? Allora, chi è che ha il controllo? Ce l'hai tu? Ce l'ho io? Le guardi là fuori? Il direttore nel suo ufficio? Sì? Chi è che ha il controllo? Prova, prova, prova. 1, 2, 3, 4. Il dottor Ethan Powell intervista il dottor Theo Calder. Questo sarà un test facilissimo. Promosso o bocciato? Vita o morte? Sei pronto, Joan? Ora scrivi su questo foglio quello che mi sono preso da te. Che cosa hai perso? Scrivilo! Scrivilo. Sbagliato! Non hai mai avuto il controllo, hai solo creduto di averlo. Un'illusione, Tabi Bourgeois! Che cos'è che controlli per certo, eh? Il volume del tuo stereo o l'aria condizionata nella tua macchina? Che altro? Che altro? D'accordo. Un'altra occasione, eri nervoso, troppa pressione, riprova. Che cosa hai perso? Che cosa ti ho preso? Scrivilo! Scrivilo! Sei uno stupido, Joa! Credevi di essere libero. Dove andrai oggi alle 2? Andrai alla palestra. La mattina la tua brava sveglia. In piena notte, quando ti svegli con il cuore che batte all'impazzata, che cos'è che ti fa sentire vincolato, Joa? Vincolato e paralizzato. È l'ambizione. Sì. Per me non sei un mistero, ragazzo. Ero come te. D'accordo, un'ultima occasione. Credi che non lo farò? Che fa se c'è uno psichiatra in meno al mondo? Sono già nei guai fino al collo, perciò cosa possono farmi? Ultima volta, e non sbagliare. Che cosa hai perso? Che cosa mi sono preso da te? Scrivilo. Sì, congratulazioni. Sei un bravo allievo, in fondo.